tutto sommato adesso è facile fare una sintesi ben distaccata. Ricordi il Primavera Festival quando mi hai detto ciao e sei svenuta. Il giorno dopo nella camera a strisce blu dell'hotel ti sei spogliata. Dei quattro stracci da folletto freak, da panca bestia sì che ti ho baciata. Non ho soldi in tasca e zero amici, anche mia madre non la sento più. E anche se è triste, dark e depressiva, la tua musica mi tira su. Io voglio quello che vuoi tu, essere contro il mondo invece averlo addosso. In 120 metri quadri di perché avere un cane, un taglio, un figlio del successo. Andare a leggere il giornale in un caffè, svegliarsi tardi la mattina, criticare il grande modo la sinistra che non c'è, farsi Dio che qualche droga, supplicare di essere popolari. In fin dei conti adesso è comodo fare un'analisi approfondita. Invece solo 5 anni fa chiedevi aiuto senza via d'uscita. Fiore strappato sei venuta da me causando un'emorragia nella mia vita. Perché l'amore rende ciechi se c'è e non distingui Silvia Plath da un parassita. Che poi tuo padre ce li avesse i soldi a me non importava neanche più. E ti guardavo mentre nuda scrivevi le battute di una serie TV. Dicevi sono quello che sei tu, essere contro il mondo invece averlo addosso. In 400 metri quadri di perché avere un cane, un taglio, un figlio, aver successo, andare a leggere il giornale in un caffè, svegliarsi tardi la mattina, criticare il grande scoperto a letto con un altro, però non mi ha fatto male, sai perché? Perché siamo tutti uguali cani nel deserto. Io vivo contro il mondo invece ce l'ho addosso, vivo di potere e sangue come te, mi piace uccidere, mentire, aver successo, andare a bere, cazzeggiare in un caffè, mi sveglio presto la mattina, lascio stare. Il grande vuoto la sinistra, scelgo se farmi di coco, Coca-Cola, canticchiare le canzoni estive. Indosso il mondo lo limito come una forma portatile di verità, per sopravvivere agisco, mi metto dentro di lui, indosso il mondo.